santità. Ma potete voi farvi santi? Voi siete sposati. Lei non sa cosa vuol dire vivere con una moglie. Ah, lo so, perché ho confessato tante mogli e altrettanti mariti circa, forse qualche moglie di più che qualche marito. Perché forse in chiesa ci vanno più le mogli che i mariti, alcune sono proprio delegate dall'uomo. Tante volte la moglie è proprio incaricata del marito delle cose di culto, di religione e delle opere assistenziali della parrocchia. Sì, sì, potete diventare grandi santi anche voi. Papà e mamma di Teresa di Gesù Bambino sono servi di Dio in attesa di essere proclamati beati. Papà e mamma, con diverse figlie. Perché non avete ricevuto il sacramento del matrimonio, che è fonte di grazie, perché viviate degnamente e l'uno santifichi l'altro? La buona condotta del marito è di esempio alla moglie, la buona condotta della moglie è esempio per il marito e ambedue esempi per i figli. Sì che potete, nonostante le lacune, le deficienze, le cadute, le debolezze, le infermità, sì. E chi non è sposato? E si sposerà? E chi non vorrà sposarsi mai? Tutti siamo chiamati alla santità. Tutti, sacerdoti in prima fila, religiosi e religiose, vessillo di santità in capo per trascinare tutto il popolo di Dio, tutto il popolo di Dio, tutti i fedeli sono chiamati al massimo. Quindi, attenti bene, veniamo al concreto, che il tempo passa, oh come passa. Non fate come certi cristiani, che sono cristiani proprio al minimo possibile. Dicono delle parolacce che rasentano la bestemmia. A distanza sembrano ancora bestemmie a chi li sente. Non facciamo come quei cristiani che vanno a messa la domenica, ma non vanno in chiesa un minuto prima, per carità. E una volta si fermavano fuori finché era finita la predica del Vangelo anche. È finita la predica, andiamo dentro, perché sennò perdiamo messa. Ah no, cristiani così, né carne né pesce, già che non sei né caldo né freddo, dice il Signore, io ti rigetterò, ti vomiterò. No, non bisogna che noi misuriamo col contagocce la carità verso il prossimo, verso le anime del purgatorio, la carità verso la Chiesa, il culto liturgico, il minimo di preghiere. Oggi è di moda parlare di mini. Ma non nella condotta cristiana. Maxi, massimi, massimalisti. Quindi questo è chiaro. Non date al Signore il minimo. Io vado a messa domenica. Perché non andare a messa anche fra settimana, specialmente quando si raggiunge la bella età, quella degli ultimi anni, le rose d'autunno? E chi le offriremo queste rose d'autunno se non al Signore Dio? Vai a messa anche tutti i giorni, c'è anche la messa per gli anziani a mezza mattina in tante chiese, c'è la messa per quelli che finiscono il turno di lavoro alle 2 e poi dalle 2 al giorno dopo. Tempo libero, certuni non sanno più che cosa inventarsi. Vai a messa, c'è anche la messa per quelli del tempo libero pomeridiano. In tante città c'è la messa alle ore 16, alle 4 o alle 18, alle 6. Vai. Ma io sono nato la domenica. Va alla messa per quelli che poverini non sono potuti andare perché infermi, perché impegnati nel lavoro anche di domenica. Vai, che paura hai. Passa un povero che gli domanda la carità, fate la scommessa qualche volta, date il più che potete, non siate tirchi, allargate il pugno, chi dona al povero presta a Dio e riceverà di ritorno con gli interessi più alti, il 100 per 1. Perché abbiamo paura di essere generosi? Io ho imparato, uno dice, a dire ogni giorno 10 Ave Marie, oh, caschi il cielo, 10 Ave Marie su 24 ore, Credi che la Madonna non sarebbe più contenta se tu ne dicessi 20? Ma dopo 20 viene anche il 30, sì, anche il 50. Una corona del rosario è fatta di 50 Ave Marie e si dicono in 12 minuti su 24 ore. Oh, come siamo fuori strada davvero quando puntiamo al minimo invece che al massimo. Abbasso il minimismo. Non puntate al minimo che vi disonora, puntate al massimo che vi onora. Cielo e terra onorano i massimalisti, non i minimisti. È Cristo Gesù che ce lo dice. Puntate verso la perfezione. E a me augurate e dite, oh, lei e i suoi preti, tutti, siate più santi di quello che siete. Più santi, perché abbiamo bisogno di vostri esempi. Per noi, voi dovete essere vessilli, bandiere che precedono. E se non lo siamo, non accontentatevi di compatirci, ma pregate, pregate per noi, che anche noi puntiamo verso il massimo. E così faremo onore al cielo e alla terra, alla Chiesa pellegrinante sulla terra e alla Chiesa trionfante nel cielo.